America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Barack Obama. President George W. Bush. President Bill Clinton. President George H.W. Bush. President Jimmy Carter. Cinque presidenti americani riuniti a Dallas per l'inaugurazione della George W. Bush Library, è una biblioteca e anche un museo dedicato all'ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, appunto, ed è una di quelle occasioni in cui l'America si raccoglie e non c'è quell'apparenza di divisione politica che si ritrova a Washington. Era una bella giornata di sole, quella di ieri a Dallas, c'era anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha incontrato Blair, ha incontrato Aznar, insomma sembrava un po' una passeggiata down memory lane, il tutto condito da canzoni, musiche, e hanno parlato i cinque presidenti americani, quattro ex presidenti, tre democratici, e tutti, devo dire, hanno avuto parole di elogio per l'ex presidente George W. Bush. Sentiamo in particolare un passaggio importante anche dal punto di vista della notizia da parte del presidente Barack Obama. The first thing I found in that desk the day I took office was a letter from George. Ecco, qui Obama dice: la prima cosa che ho trovato al mio primo giorno di lavoro sulla scrivania dell'ufficio Oval è stata una lettera di George W. Bush, e siccome sapeva che avrei dovuto imparare quello che lui aveva imparato e che il lavoro di presidente è un lavoro che richiede umiltà, mi ha dato dei consigli. Ci sono dei momenti in cui si fanno degli errori, momenti in cui si vorrebbe poter riportare indietro le lancette dell'orologio, ma quello che so del presidente Bush e che spero i miei successori diranno di me è che amiamo questo paese e facciamo del nostro meglio, e ogni tanto si commettono degli errori. Ecco, questo passaggio è importante perché nel corso della giornata abbiamo avuto poi delle notizie altrettanto importanti. Sentiamo. The US intelligence community assesses with some degree of varying confidence that the Syrian regime has used chemical weapons on a small scale in Syria. Chuck Hagel, il segretario al Pentagono, in un incontro stampa ieri ha detto: per la prima volta il nostro sistema di intelligence ha la prova che il regime siriano ha usato armi chimiche su piccola scala in Siria, in particolare l'agente chimico sarin, che è un gas nervino classificato come arma chimica di distruzione di massa. Ecco perché questa dichiarazione di ieri è stata molto molto importante, perché secondo queste dichiarazioni la Siria avrebbe passato quella linea rossa di demarcazione che aveva indicato il presidente Barack Obama, e cioè che l'utilizzo di armi chimiche da parte della Siria avrebbe costituito un game changer, e cioè un cambiamento del gioco e delle posizioni sul campo. Vuol dire questo che cosa? Beh, un possibile attacco, una possibile ritorsione militare, ma proprio su questo poi l'amministrazione ha voluto essere prudente, proprio per evitare errori, e qui arriviamo alla dichiarazione di Obama, errori che sono stati commessi proprio durante l'amministrazione Bush, e quando si credeva che l'Iraq avesse armi per la distruzione di massa, e dunque si era deciso di attaccare proprio per distruggere quelle armi per la distruzione di massa. Errori, dice Obama, che capitano, e dunque per questo l'amministrazione vuole procedere con i piedi di piombo e così farà ulteriori analisi per capire se davvero queste informazioni sono credibili al 100%. Last night we were informed by the FBI that the surviving attacker revealed that New York City was next on their list of targets. Altra notizia di ieri, il sindaco Bloomberg, Mike Bloomberg, ci ha dato notizia che i due terroristi, Dzhokhar Tsarnaev e il fratello Tamerlan, che è stato ucciso, avevano deciso, nel momento in cui erano in fuga e avevano rubato una macchina e tenevano il proprietario di questa macchina come ostaggio, avevano deciso di andare con questa macchina fino a New York. La macchina era carica di esplosivi, e di andare direttamente a Times Square e di far esplodere questa macchina nella notte in questa città da dove vi sto parlando. Una notizia che ovviamente ci ha fatto scorrere un brivido per la schiena, perché proprio quella sera si diceva che i due fratelli forse avevano preso un treno per venire a New York, e sappiamo che quelle bombe avrebbero potuto fare del male come è stato fatto a Boston. Ma che è successo? Che la macchina non aveva abbastanza benzina, si sono fermati a un distributore, al distributore il proprietario della macchina è riuscito a scappare, ha chiamato la polizia e da lì il resto è storia, la polizia li ha trovati, li ha cerchiati e c'è stata la sparatoria che ha portato all'uccisione di Tamerlan. America 24. President Bush kept his promise. He appointed a distinguished senator from Missouri, John Danforth, and a great general from Kenya named Sumbawa. Jimmy Carter, che ringrazia personalmente il presidente George W. Bush per l'aiuto che gli ha voluto dare per alleviare certi problemi africani. Ecco, non credo che ci siano due presidenti più distanti dal punto di vista ideologico di quanto possano essere Carter da una parte alla sinistra e George W. Bush alla destra. E quindi questo intervento di Carter ha sorpreso per così la trasparenza con cui ha espresso queste parole, che sembravano ed erano sicuramente molto sentite. Poi è toccato a Clinton. A couple of times a year in his second term, George Bush would call me just to talk politics. Beh, Clinton naturalmente dice che con George W. Bush erano amiconi di sempre, si vedevano, si telefonavano, e ha ricordato questo episodio. Dice: ma qualche volta il presidente Bush mi chiamava per fare delle conversazioni politiche molto private, perché insomma noi ex presidenti ci sentiamo spesso e sappiamo di poter parlare liberamente. Dice: però mi è preso un colpo quando Laura Bush mi ha detto che tutte le conversazioni telefoniche del presidente erano state registrate in modo digitale. And a chill went up and down my spine when Laura said that all their records were digitized. Dear God, I hope there's no record. Spero proprio che non venga fuori nulla, altrimenti sì che sarei imbarazzato. Thank you all very much. What a beautiful day in Dallas. George Herbert Bush, il padre, è stato un grandissimo onore guidare questo paese e sono orgoglioso del mio primogenito e del fatto che voi tutti siete qui a celebrarlo. Poche parole toccanti, sentite. Il vecchio presidente era in sedie a rotelle, devo dire, in effetti invecchiato, ma il pubblico si è alzato in piedi quando lui stesso ha cercato di alzarsi da questa sedia a rotelle. When all the living former presidents are together, it's also a special day for our democracy. Di nuovo Obama che, elogiando George W. Bush, dice: è un uomo a suo agio con se stesso, sa chi è, non ha pretese, prende il suo lavoro seriamente ma non si prende troppo sul serio, è un uomo buono. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless. E infine il ringraziamento di George W. Bush. Ha voluto dedicare la gran parte del suo discorso al concetto di libertà. Dice: io ho voluto lavorare per la libertà e questa è la missione futura degli Stati Uniti, libertà contro le catene, libertà per il voto, libertà per la creatività, per la pace. Sono convinto che i nostri giorni migliori sono davanti a noi. E poi la commozione, l'avete sentito, si è rotta la voce e gli occhi si sono riempiti di lacrime. Devo dire, l'America sia in difficoltà e sotto attacco dei problemi in Medio Oriente, nel mirino dei terroristi, l'abbiamo visto pochi giorni fa con le notizie di oggi, eppure nel momento in cui si riunisce attorno dei valori che sono gli stessi per tutti, ed è attorno a quei valori che vediamo democratici e repubblicani unirsi in modo reale. Da noi non credo sarebbe possibile, abbiamo visto che non è possibile in Europa. Non c'erano proteste ieri, ma le proteste c'erano ai funerali di Margaret Thatcher. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla alla cerimonia di ieri che ha dominato poi le cronache televisive americane per l'inaugurazione della biblioteca George W. Bush, con il coro dell'esercito americano che ha intonato una canzone meravigliosa con straordinaria interpretazione, Battle Hymn of the Republic, che noi conosciamo come Glory, Glory, Hallelujah. Strong. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.